Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Pianeta donna, lo so che non è particolarmente originale, ma questo potrebbe essere il titolo della puntata di oggi, che vuole essere un'occasione per fare il punto sulla salute e sul benessere di noi donne, a cui concorrono anche le relazioni che abbiamo con l'altro sesso. Per questo non sentitevi esclusi se appartenete all'altra metà del cielo. Avete la vostra quota di responsabilità, o per metterla in positivo, un ruolo importante per la costruzione del nostro benessere fisico ed emotivo. Allora, alle amiche che mi stanno ascoltando, chiedo di chiamare sin da subito al nostro numero verde 800 24 00 24 per raccontarci in diretta i cambiamenti che hanno vissuto e quelli che si preparano ad affrontare, invitandole ad un confronto con le loro mamme, adolescenza, maternità, menopausa, ma parleremo anche di lavoro, di relazioni, di coppia. Per attivare invece gli ascoltatori che in questa puntata svolgeranno un ruolo di radiocronisti del cambiamento di noi donne, mi faccio aiutare dal collega Alessandro Pellizzari, uomo, grande conoscitore dell'universo femminile per necessità, dato che lavora in una redazione composta da tutte donne, e per lavoro, dato che Star Bene, il mensile di cui è caporedattore, si occupa in modo particolare della salute delle donne. Alessandro, ciao e benvenuto. Bentornato. Grazie, buongiorno Nicoletta. Mi hai dato una bella responsabilità, però è vero che il... Vediamo se sono più bravi gli ascoltatori o le ascoltatrici. Sì, infatti, io vorrei stimolare gli ascoltatori, i maschietti, chiedendo loro, visto che parliamo dell'universo femminile, quali sono secondo loro i più grandi cambiamenti, basta citarne uno o due, delle compagne, cioè delle nostre partner rispetto alle madri, cioè alle partner dei nostri genitori. Questa è una cosa che volevo chiedere. E sempre su questo versante, e forse le due domande sono collegate, oggi che cosa vi fa più paura di una donna? Mamma, domandona da mille punti. Anche perché le lettrici ce lo chiedono, ma che cos'è che gli fa paura? Che cos'è che teme di me? No, ecco, quindi domanda secondo me molto... Faremo tesoro delle vostre telefonate, 800 24 00 24, ma... Noi donne viviamo di più, ma come ce la passiamo? Come stiamo? In linea con noi abbiamo la professoressa Adriana Albini, responsabile della ricerca oncologica dell'Istituto Scientifico Multimedica di Milano. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno, grazie. Viviamo di più, ma come stiamo? Stiamo bene? Beh, viviamo di più, ma ci ammaliamo di più. Però, diciamo, abbiamo tante risorse per curarci e per vivere a lungo e combattere l'invecchiamento, no? Secondo me, se posso rispondere alla domanda, ad esempio, invecchiamo meno rispetto alle nostre mamme e nonne. Cosa dici? Assolutamente. E ci aiuta sicuramente lo stile di vita, una nuova cultura che è molto attenta alla prevenzione. Sicuramente siamo più consapevoli, facciamo più esercizio fisico, moto, sport, ci curiamo un po' di più, siamo attente al peso, no? Una volta si tendeva a lasciarsi un po' andare, si fa un po' più di palestra, si mangiano cibi più sani. La donna secondo me è molto consapevole rispetto alla prevenzione, fa gli screening, va dal medico, in qualche modo si preoccupa di mangiare le cose giuste. Anzi, noi facciamo bene anche agli uomini, perché apparentemente le statistiche dicono che gli uomini sposati o che vivono con una compagna vivono più a lungo, probabilmente perché in qualche modo la vita di coppia è più sana. Siamo gli angeli del focolare e della salute. Tra l'altro abbiamo un appuntamento importante proprio in questi giorni con l'AIRC. Sì, diciamo nei prossimi giorni, sabato è la giornata dell'AIRC dove vengono distribuite le arance della salute sulle piazze d'Italia, e l'arancia è un frutto proprio simbolo della salute, perché ha un sacco di principi nutritivi buoni e anche aiuta, diciamo, a sponsorizzare la ricerca, il merito, sentivo nella pubblicità la parola merito, di cui la ricerca, l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro è molto attenta a finanziare le giovani speranze italiane che hanno sempre meno fondi per lavorare. Quindi arance, tutti in piazza con le arance, l'agrume della salute, il frutto della salute, direi un frutto che fa bene agli uomini e alle donne. Sicuramente. niente, fa tutto bene nell'arancia, gli spicchi, la polpa, il succo, la buccia, perfino le pellicine, tutto sano. Quindi se dovessimo dire l'arancia è femmina? Chi lo sa, nel senso che si scopre... meno male. Meno male. Alessandro Pellizzari dice meno male, perché dell'arancia si mangia tutto, dicevi. Sì, si mangia tutto, sì sì. Infatti anche la scorzetta nel cioccolato fondente, secondo me, ha i suoi principi nutritivi. E, sai che in molte piante sono state trovate delle sostanze simili all'estrogeno, l'ormone femminile. Quindi sono questi fitoestrogeni che in qualche modo potrebbero aiutare, ecco, la donna anche attraverso le fasi della vita. Quindi sono ormoni naturali che ci dà proprio l'alimentazione. Ringrazio la professoressa Albini per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie. A prestissimo. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via. E torniamo in studio e qui con me ho un ospite che voglio presentarvi, è il dottor Enrico Semprini, ginecologo e immunologo riproduttivo. Buongiorno. Buongiorno cara Nicoletta. Autore del libro La nuova gravidanza. Perché nuova? Allora, rispetto a che cosa? Rispetto a quello che avveniva fino a pochi anni fa. La donna ha una determinazione oggi nel scegliere la gravidanza che è differente da quella del passato, e la realtà sociale e anche biologica cambia col tempo. Faccio un esempio semplice. Sì. Fino a pochi anni fa una donna che si presentava dal medico con un test di gravidanza positivo riceveva una serie di informazioni su cosa non doveva fare. Non deve. Bravissima. Non deve stancarsi, non deve sollevare pesi, non deve. Adesso? Adesso la donna va da ginecologo per chiedere che cosa deve fare, quali sono i provvedimenti che può mettere in atto per avere la gravidanza più sicura possibile e per avere un bambino il più sano possibile. Uso il possibile perché non c'è il sano e il malato. Esistono dei risultati riproduttivi che oggi la medicina può tutelare molto meglio che in passato. Questo ha portato la donna ad avere una consapevolezza, una autorevolezza completamente differente. Quindi una volta c'era un atteggiamento passivo. Io, come medico, dicevo alla donna cosa fare. Oggi il ruolo si è invertito. È la donna che mi chiede che cosa si può fare. Sono io, diciamo, sotto esame, non è lei. È una nuova realtà che le donne percorrono spontaneamente. I medici qualche volta arrancano un pochino dietro a questa nuova autorevolezza. A me non fa paura, mi diverte, credo che mi aiuti a crescere. Nella mia introduzione io ringrazio, ma di cuore, era sincero, non è come dire di marketing. Certo. Le mie pazienti sono convinto di essere un medico abbastanza competente, abbastanza bravo, perché ho avuto delle pazienti straordinarie che mi hanno insegnato a rispondere in maniera adatta a quello che loro mi chiedevano. Quindi raccolgo il suo spunto, dottor Semprini, per invitare le nostre ascoltatrici a rivolgere le loro domande e anche, se vogliamo, no, aiutare il medico a capire di più, a mettersi più a nostra disposizione. 800 24 00 24. Alessandro, tra l'altro tu hai collaborato alla stesura di questo libro. Sì, è stata una bellissima avventura, devo dire. È stata un'esperienza bella, immagino. Tu sei, sì, papà, sei comunque un giornalista che si occupa di salute. La fatica e anche la soddisfazione di occuparti in prima persona di questo tema? Beh, questo devo dire è un libro molto diverso da quello che si può trovare, perché è vero che c'è una parte molto utile, molto pratica, che è quella per esempio del diario della gravidanza. Si dice senza nessun tipo di remora quelle che sono le verità della gravidanza, che a volte non tutti i medici arrivano a dirti, no? Quasi per proteggerti. Però è molto giusto quello che diceva il dottor Semprini. Si è ribaltata la situazione, bisogna cavalcarla questa situazione, questa vostra forza, no, di chiedere le cose ai medici. Poi a me le lettrici che chiedono una cosa in più mi piacciono molto. E poi esiste una parte narrativa di questo libro attraverso le storie delle pazienti, attraverso un'analisi, per esempio, del come si arriva al primo figlio, quali sono le decisioni che la coppia deve passare, degli snodi molto importanti che a me personalmente hanno coinvolto in maniera emotiva fortissima, come fare l'amniocentesi, non fare l'amniocentesi. Sono grandi, grandi temi che chi affronta l'avventura di avere un bambino, o il secondo, nel mio caso anche il terzo, si ripresentano sempre, quindi ogni volta è una nuova gravidanza, direi. Per cui è stato un bel viaggio, è stato una bella esperienza ed è veramente un libro leggibile. Roberto ci chiama da Bologna, buongiorno, 800 24 0024, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Volevo portare un'esperienza, sì? Un'esperienza e al contempo anche darmi una statistica. Io sono cresciuto in un universo femminile, pensate, danza classica, per cui figuriamoci, e insegno all'università. Innanzitutto una statistica. Dovete sapere che ho verificato i voti fra uomini e donne all'università. Sì. E in media, le donne hanno voti migliori degli uomini. Ma, in media. Sì. Ma i picchi alti sono maschili. Chiaro, quindi in media le donne sono migliori degli uomini all'università. Ma i picchi alti sono appannaggio tipicamente di ristrette cerchie maschili. Ora, che cosa noto di cambiamento rispetto alle donne della generazione dei miei genitori, dei miei nonni? Dunque, a questa domanda rispondo in questo modo. Noto che si sono confusi diritti con specificità, cioè si è perso quel grande elemento di diversità che è femminilità con la F maiuscola, che non vuol dire affatto sudditanza, tutt'altro. Le donne hanno strumenti straordinari, come la storia peraltro insegna a ben leggerla. Quindi io penso che l'aver assunto, in ragione di una sorta di emancipazione, gli aspetti più negativi degli uomini abbia in realtà impoverito molto. Diciamo, la femminilità è stata persa, addirittura viene riservata in un angolo della mera intimità. Sbagliato. Le donne devono avere il coraggio di porre in primo luogo la loro femminilità nella sezione più empatica, dolce e comprensive rispetto. Mentre ciò che spaventa di più, secondo me, gli uomini d'oggi, allora, siccome siamo per radio, cerco di fare il populista, è a volte la petulanza, vorrei essere ben compreso. Sì. Cioè l'idea che in forza di questo grande potere che le donne hanno di dominio nel mondo dell'intimità, dell'attività, tipicamente, questo induca una strenua critica degli uomini. Ho appena detto che in media sono inferiori, no? Sì. Però cerchiamo, care donne, di cogliere l'elemento positivo, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ci proveremo. Il meglio dell'uomo, di quello che può dare l'uomo. Altrimenti il rischio qual è? Il rischio è l'essere accusati di petulanza con tutte le degenerazioni che questo termine, anche la cronaca giornalistica, certo, ha anche dato ampio risalto. Mi spiego? Si è spiegato perfettamente, grazie Roberto. Io volevo commentare un po' la telefonata di Roberto, che leggo anche in molti messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 con i nostri uomini di oggi, i nostri ospiti. Dottor Semprini, è vero che sicuramente noi donne siamo cambiate, no? E abbiamo comunque, gioco forza, dovuto rinunciare magari o a posticipare alcuni appuntamenti. Io questo non lo percepisco, come medico non lo vedo in questo modo. Io vedo le donne che mantengono, anzi, il loro primato biologico. La donna è più sana, ha più materiale genetico, ha la possibilità di fare un figlio. Sì. E oggi si apre a questa possibilità in una maniera quasi indipendente, cosa che una volta non era possibile. Non era pensabile. Quindi non trovo una petulanza, trovo delle donne che affermano un loro desiderio, sì, che è molto profondo nella maggior parte delle donne, e io cerco di aiutarle a realizzarlo nel modo più sicuro possibile. Dottor Semprini, nella sua prefazione lei scrive che ai nostri giorni maggiore la disponibilità di denaro della famiglia, minore è il numero dei figli. Sì. Ecco, lei non crede invece che sia spesso la precarietà, la mancanza di certezze, di sicurezza economica a spingere le donne e le coppie a rimandare il progetto di avere un figlio? E poi spesso noi notiamo che quando poi questo desiderio di maternità diventa molto forte, spesso molte donne si confrontano con gli anni e con l'impossibilità o la difficoltà ad avere un figlio. Va bene, le do una risposta scientifica. Se sì. È troppo scientifica mi interrompe. Certo, anche perché qua che cosa gli do un pizzico. Va bene, allora, questo è un fenomeno sociale conosciutissimo. Una volta una famiglia per avere 10 figli sani, adulti, sì, la donna doveva avere 20 bambini. Così è in Africa. C'è una mortalità perinatale, c'era una morte del bambino al parto. Tutto questo progressivamente, con una maggior disponibilità economica e migliore cure mediche, si rarefa e quindi diventa uno, due, tre bambini che molto verosimilmente, la mortalità perinatale del 3 per mille nei paesi, nei paesi dove c'è una buona assistenza medica, le darà un figlio sano, quindi uno, due o tre bambini sono sufficienti. Le esigenze di avere dei figli come investimento in termini di forza lavoro manuale, pensiamo che nei paesi del sud-est asiatico, in India, eccetera, purtroppo vi sono ancora vi è l'eliminazione selettiva dei feti femmina, perché un feto femmina in una società rurale, in una società contadina, è un carico, un peso, nonostante la quantità di cose che una donna può fare, incluso una cosa fondamentale, può fare dei figli. Sì. Però una donna può farne 17, mentre invece 17 figli che lavorano nei campi col padre generano un reddito importante. Quando questo scenario cambia, sì, e le macchine si sostituiscono al lavoro manuale, automaticamente il numero di figli diventa minore. Quindi se arriva una persona molto povera nel nostro paese, avere 4-5 figli per lui è normale, gli rimane questo abbrivio. Una volta che poi dopo si inserisce in questa dinamica economica, non ha più bisogno di così tanti figli per realizzarsi, non sono più così utili al suo nucleo familiare e il numero di figli diventa di meno, ma però li può portare magari a un grado di istruzione maggiore, e questo è un fenomeno che si è osservato in tutti i paesi del mondo. Questo per quanto riguarda il numero dei figli. Quanto all'età in cui si iniziano ad avere figli, che è sicuramente aumentata rispetto a ieri, allora, alle nostre mamme inteso. Bene, anche l'aspetto dell'età è funzione del grado di istruzione e dell'ingresso nel mondo del lavoro, della possibilità di generare un reddito, che tanto più è tardivo per entrambi, sia per il partner maschile che per il partner femminile, tanto più viene dilazionato questo tempo in cui si possono o permettere da un punto di vista economico o permettere da un punto di vista educativo di avere un figlio. Io volevo intervenire sul discorso del petulante, anche a costo di prendermi tutti gli strali dei miei colleghi maschi. Voi non è che siete petulanti, voi siete diventate più assertive, nel senso che vi siete appropriati, a mio giudizio giustamente, un po' quello che diceva il dottor Semprini nel cambio di rapporto con il medico, anche questo è uno specchio della stessa assolutamente. Cosa. Assolutamente. Del fatto che voi dovete dire la vostra, avete tutti i diritti di dire la vostra. Siamo noi che eravamo abituati a non sentirvi parlare o a sentirvi parlare meno, quindi siamo noi che siamo indietro. Allora, sentiamo Arianna, che ci chiama da Padova, a proposito di dare voce alle donne. Arianna, benvenuta e buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Io ho partorito il 16 di settembre, sì, di 2011, ho un bambino di 4 mesi e mezzo e ho partorito di venerdì. La domenica prima stavo facendo allenamento, mi stavo facendo i miei allenamenti, premetto che sono un ex atleta di canottaggio. Durante la gravidanza mi sono sempre allenata, naturalmente non canottaggio, però sì, e ho sempre fatto, diciamo, lo sport che mi sentivo di fare, perché lo sport mi ha sempre aiutato. Premetto anche, faccio un'altra premessa, che la prima ginecologa da cui andavo, quando ho manifestato la mia volontà, diciamo, di fare dello sport, dell'attività, ma assolutamente mi aveva proibito. Era ancora, come diceva il dottor Semprini, il ginecologo alle donne che aspettavano bambini, diceva esatto, non deve fare, esatto, non deve fare, invece esatto. Arianna, io mi sentivo di farlo, mi sono divertita tantissimo, ho avuto una gravidanza bellissima Il bimbo è nato sanissimo, 4,5 kg di bimbo, quindi... E avete già ordinato la piccola canoina? La piccola barca, perché la canoa è un altro sport. Comunque il bimbo sta bene, io ho ripreso ad allenarmi dopo e a lavorare dopo un mese, ho lavorato fino ai 9 mesi. Domenica scorsa, 29 gennaio, ho vinto il titolo italiano Master a Livorno. Complimenti! Quindi è proprio, cioè, la gravidanza non è una cosa che deve torpare le ali alle donne, ma deve assolutamente deve esaltare la femminilità. Non è una malattia la gravidanza. Non è una malattia, esatto. Difatti me l'hanno sempre detto, mi dicevano no, fermati, no, qua, no, no, là, invece. Anzi, è un momento magnifico nella vita di una donna. Esatto, ne parliamo. Grazie. Di fare quello che si può. Arianna, grazie. Noi andiamo a sentire i mercati, poi il Mete 800 24 00 24. Il dottor Semprini rimane con noi sino al termine della puntata. Vedo che molti di voi stanno già chiamando il nostro numero verde per porre domande e raccontare la vostra esperienza. Naturalmente raccogliete l'invito anche di Alessandro Pellizzari, che invita l'altra metà del cielo a raccontare il cambiamento più diverso che avete. E la paura più forte. E la paura più forte. Ma vi facciamo davvero paura? 800 24 00 24. Essere e benessere. Guardate, Charlotte ha portato i cotillon. Non riesco a rimanere incinta. Quando penso a tutte quelle donne che ogni giorno restano incinte, incinte, incinte, io da 5 mesi ci provo, niente. Charlotte, tesoro, vedrai che ci riuscirai. Ma quando? Le probabilità di concepire sono solo del 30% a 35 anni e poi inesorabilmente diminuiscono. Insomma, non è detto. Se è così difficile restare incinte, come gli spieghi tutti quei bambini che strillano in aereo? Non c'è proprio un bel niente da ridere. Oh, scusa tanto, credevo fossimo a pranzo, non a un incontro sulla fertilità. Ok, un bel break, ragazze. Qui con noi in studio Enrico Semprini, autore della Nuova Gravidanza, avere un figlio oggi. Dottor Semprini, le donne di oggi sono cambiate e affrontano la gravidanza in modo diverso. Lei nel suo libro le accompagna, faceva proprio la distinzione tra il manuale e il libro sulla gravidanza. Che cosa? Sì. Io ho curato un manuale sulla gravidanza che era stato scritto da degli autori inglesi, l'abbiamo attualizzato per l'Italia. Per 10 anni è stato il bestseller, è una guida, direi, impeccabile da un punto di vista scientifico e clinico. Ho scritto un libro, invece, che è un aspetto differente, che riflette il colloquio che io ho ogni giorno con le mie pazienti. Io seguo prevalentemente donne con disturbi riproduttivi, quindi diciamo un pochino più difficili da assistere, sì, in maniera compiuta. Cosa intendo per compiuto? Compiuto vuol dire che non è solo l'affrontare il problema tecnico che rende un medico un buon partner durante la gravidanza. C'è un aspetto psicologico, c'è un aspetto di contestualizzazione della gravidanza. Bellissima la telefonata di prima della sportiva di Padova, che a fronte di un'esplicitazione così diretta del suo desiderio di mantenere un'attività e a fronte di un rifiuto si è spostata altrove, ha fatto la sua attività. E di base, infatti, in gravidanza non vi sono limiti, vi sono limiti solo a due pratiche sportive, il paracadutismo e l'immersione con le bombole, perché vi è un rischio di embolia. In tutte le altre discipline possono essere seguite tranquillamente fino a termine di gravidanza. Io ho avuto, ho seguito in un periodo della mia attività le mogli dei giocatori di hockey canadese, è lo sport nazionale, quindi molte delle star delle squadre italiane sono qua e si allenano vicino a Milano. Le mogli sono giovanissime, hanno 24 anni. Queste donne, che poi tornavano a partorire in Canada, dove c'è un eccellente sistema sanitario nazionale, desideravano partorire lì, correvano 10 miglia ogni giorno fino a 37 settimane di gravidanza, quindi io mi sono documentato sulla letteratura scientifica se vi fossero delle controindicazioni. Hai capito queste canadesi. Però, dottor Semprini, se dovessimo fare un elenco degli amici della fertilità della donna, che cosa metteremo ai primi posti? Scegliere un compagno fertile, perché questo semplifica le sue scelte riproduttive. Allora, siccome le persone non girano in genere con il loro esame seminale appeso, sì, al collo... Lei ha qualche trucchetto per farci capire? Beh, ad esempio un signore che ha avuto 6 figli da 6 differenti compagne, magari un po' irregolare da come condotta, come dire, emotiva, ma sicuramente fertile. Nell'altro caso, non lo sappiamo, non c'è nessun modo per conoscere se è un seme fertile se non esaminarlo. Meglio ancora se abbiamo una prova di una recente fertilità. Quindi vede che la risposta complica un pochino la vita della donna che deve scegliere quando e con chi. E spesso noi donne arriviamo ad un'età e l'abbiamo riprodotto questo, abbiamo fatto sentire questo breve estratto di Sex and the City proprio perché si arrivano ai 35-40 anni e poi si ha un po' l'affanno, questo ammesso di avere il compagno con, giusto, questo bambino non arriva. Dopo quanto tempo è giusto farsi magari due esami o rivolgersi al medico e chiedere informazioni? Allora, i tempi normali di fertilità sono stati studiati, su questo quindi non le sto dando un'opinione, le sto presentando dei dati, diciamo, storici. Sì. Entro 12 mesi dall'abbandono di un metodo contraccettivo, sì, il 90% delle coppie concepisce. Il 10% che non concepisce ha il 7% per anno per i successivi 5 anni. Il messaggio è questo: le persone sono convinte che a un certo punto si metteranno d'impegno per produrre un bambino. No, il bambino arriva solo abbandonando i metodi contraccettivi. Il meccanismo ha una sua deriva biologica, per cui è come un bambino piccolo: se non ha nessun deficit, a un certo punto è abbastanza forte, si alza e cammina, anzi corre tutto il tempo, si arrampica per i muri e fa di tutto. Non abbiamo bisogno di fargli un corso per insegnargli ad arrampicare o a muoversi. La stessa cosa è la fertilità. Il meccanismo è stato studiato e messo a punto in circa 5 milioni di anni, funziona ancora perfettamente. Con che tempi? Quelli che abbiamo detto. Quando questi tempi sono passati e non è avvenuto nulla, è giusto avere una verifica dei tre fattori che condizionano la fertilità: la qualità del seme, la qualità delle uova e che la donna, che è l'elemento centrale della gravidanza, non abbia ostacoli nel suo addome, nella pelvi, se vogliamo parlare in maniera un pochino più corretta, a che i due gameti, seme maschile e uova, si incontrano e facciano il loro dovere. Abbiamo Luca, Andrea, Giovanna e Vincenzo che ci aspettano. Luca, buongiorno. Buongiorno, salve, io volevo dire, condividere, diciamo, la mia sul concetto di paura. Sì. In primo luogo volevo dire che io amo le donne e non ho paura delle donne, perché il discorso degli uomini che hanno paura delle donne si basa, secondo me, almeno su due punti in particolare. Uno, che hanno paura del pragmatismo delle donne, gli uomini, perché le donne sono di salute, sanno sempre cosa fare, come reagire, invece l'uomo si ferma nei momenti, diciamo, di difficoltà. E il secondo, il più importante invece, è che l'uomo non ha per niente intelligenza emotiva, io almeno la chiamo così, che è ben oltre, va ben oltre, diciamo, il concetto di empatia. E quindi, diciamo, questo è, diciamo, la paura più grossa che l'uomo può avere. Però l'empatia, diciamo, l'intelligenza emotiva è cosa che sta sempre più diminuendo nelle donne. Sì. Perché il concetto diciamo, di macismo che contraddistingue gli uomini sta venendo fuori anche nelle donne. Grazie a Luca, Andrea da Modena e poi Giovanna da Parma. Andrea, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire che la differenza che vedo tra quella che era mia madre e quella che è la mia compagna è che vedevo mia madre come una donna soddisfatta di quella che era la tranquillità familiare, di quella che era l'abitudine, sapeva che la sua vita sarebbe stata così e con amore accudiva i figli e anche il marito. La differenza con la mia compagna è che invece la mia compagna sembra di più frustrata da questa cosa, nel senso di sapere che tutti i giorni la sua vita sarà così. Grazie Andrea. Giovanna da Parma. Buongiorno. Giovanna. Allora, io volevo portare la mia testimonianza di mamma di un bimbo di 19 mesi. Ho affrontato una gravidanza e il parto in modo meraviglioso. Ho sempre pensato innanzitutto che, come si diceva prima, non è una malattia. Non è una malattia. Ho sempre fatto tutto quanto facevo prima di rimanere incinta e anche forse di più. E sono arrivata, e soprattutto la cosa che mi ha sempre fatto sentire importante e ha fatto sempre sentire importante quella che era la gravidanza è che mi sono approcciata ad essa pensando di non essere la sola che stava vivendo questo momento meraviglioso, ma c'era anche il mio bambino. E questo l'ho sempre pensato sia durante la gravidanza che durante il parto. Questo è un messaggio molto bello, dottor Semprini, che ci dà Giovanna. Questa è l'idea di essere una coppia, no? Con il bambino che aiuta la mamma a trascorrere questi mesi, anche con quella serenità giusta per viverla come un'esperienza assolutamente naturale. Ma vede che questo riprende proprio le parole con cui abbiamo iniziato la sua trasmissione. La donna è cambiata, non sta parlando di viverlo con il partner, è con il suo bambino. Questo bambino è un bambino attivo, quindi noi ci stupiamo adesso che bambini di 2 o 3 anni ci rispondano. Alessandro ha dei figli di cui intanto ci manda le esternazioni di straordinaria lucidità, eccetera, pur essendo molto piccoli. Se li si tratta da piccoli adulti, questi rispondono in maniera molto intelligente. La prossima frontiera sarà parlare anche con i nostri feti. Quindi io ad esempio insisto, perché le mamme si hanno già scelto un nome, non voglio chiedere se si muove bene il feto, voglio chiedere se si muove bene Nicolò, Maria o Rachele nella loro pancia, e sono sicuro che il bambino sente questo e risponde ed è contento che qualcheduno si interessi di lui. Quindi io ho 2 pazienti davanti, una donna e il suo bambino, lui non un contenitore biologico di un feto. Ecco, quindi lei, i ginecologi sono in genere medici che curano si occupano di 2 persone, una che da cui sono state scelte, l'altra che suo malgrado si trova a essere accudito dal ginecologo, comunque ne cura 2. Sì. 800 24 00 24, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi ritorniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. Volevo annunciarvi che all'interno del Women Member Center Group è nato il settore per le piccole women crescono. Ah, se ne sentiva proprio il bisogno. Veramente. Con delle brevi storie istruttive. Attenzione bambine, sono un rospo, ma in verità sono un bellissimo principe, trasformato in rospo da una maledizione. Se tu mi bacerai, io ti porterò nel mio castello, ti sposerò, faremo dei figli, tu ti occuperai di me, ti occuperai dei figli, ti occuperai dei castelli! Stasera rane per cena! Omer presente in sala! Storielle le facciamo anche noi! Esisteva 3500 anni fa un oracolo. Chiunque avesse fatto una richiesta all'oracolo l'avrebbe esaudito. Se avesse formulato la verità, se avesse detto una bugia, sarebbe scomparso di fronte all'oracolo stesso. Arrivò una Smart bicolore, parcheggiò in terza fila e non c'erano macchine. Scese una bella donna, guardò l'oracolo e disse: io penso, e puff, sparì. Siamo sempre qui, 800 24 00 24, parliamo di donne ma diamo voce anche agli uomini perché vogliamo capire come commentano i nostri cambiamenti. Ma da donne invito le ascoltatrici a raccontarci dei cambiamenti significativi, quelli che stanno affrontando, quelli che vorrebbero affrontare. Qua con noi Enrico Semprini, che è ginecologo, autore della Nuova Gravidanza, e stiamo un po' riflettendo su questa scelta della donna. Talvolta però la donna vorrebbe diventare mamma, ma non trova il compagno giusto e sembra, come si dice, che non ci siano più gli uomini di una volta. D'altra parte non esistono neanche più le mezze stagioni per una donna. Dottor Semprini, che cosa dice? Allora, il rapporto maschi-femmine è rimasto invariato. Nascono 106 maschi ogni 100 femmine. Si concepiscono più maschi. Poi man mano questo si assottiglia, fino a che nell'età della piena fertilità, quindi gli anni verso i 20-24 anni, questo numero è 100 a 100, perché che cosa avviene? Avviene che il maschio si appende al tronco del ramo per far vedere quanto è forte, si rompe il tronco del ramo ed abbiamo un maschio di meno. Sì. E poi i maschi sono più fragili anche da un punto di vista di patologia, ma però prevalentemente è il loro comportamento testosteronico che li elimina. Sì. Quindi non è vero che non ci sono più gli uomini di un tempo, né che la fertilità è cambiata, nonostante queste segnalazioni degli inquinamenti, eccetera, eccetera, la percentuale di maschi fertili o con un seme poco fertile è rimasta sostanzialmente la stessa. Forse hanno cambiato un po' testa? Allora, non mi deve chiedere sulla testa degli uomini per un motivo. Uno, faccio il ginecologo e lo faccio da così tanti anni che vedo un pochino il mondo con gli occhi delle mie pazienti, quindi non riesco a valutarli molto bene. Per questo io la volevo tenere dalla mia parte, ma lei non è caduto nel tranello. Invece c'è la domanda per voi, per avere a casa il libro del dottor Semprini, La Nuova Gravidanza, in collaborazione con la Rizzoli.it, ed è la domanda, è, dottor Semprini, la fa lei: al parto pesano più i maschi o le femmine? Il peso di nascita. 800 24 00 24. Ma siamo stati un po' cattivelli, l'abbiamo voluta fare all'ultimo, ma abbiamo ancora un 7-8 minuti, quindi chiamate e motivateci anche la vostra risposta. Abbiamo Claudia che ci chiama da Brescia. Claudia, buongiorno. Buongiorno. Salve. Buongiorno a lei, benvenuta. Grazie. ascolti, chiamo niente, sono per portare soltanto la mia esperienza. Sono una trentenne, quindi è già un anno che noi provavamo comunque a mettere in campo una gravidanza, finalmente è arrivata, sono alle primissime settimane, quindi per me è un'esperienza abbastanza nuova. Mi varca meno tra ascoltando il mio corpo, percependo comunque le prime sensazioni, e sono ancora tra lo stordito e il gioioso. Bella questa, tra lo stordito e il gioioso. Eh sì, effettivamente. È vedo vero. Che tra l'altro, meravigliosamente, vedo mio marito la stessa identica esperienza, anche lui comunque così sorridente, gioioso, anche perché l'abbiamo cercato e voluto, però effettivamente iniziamo a essere comunque così, ancora un po' spaventati, non sapevo bene ancora come comportarci, cosa fare. Allora, per esperienze di amici. Ma ad esempio, Claudia, qual è un dubbio che ha, magari perché la mamma, la suocera le dicono fai così o non fare così, che così approfittiamo anche del dottor Semprini in questo spazio, che in questi minuti conclusivi, per sfatare anche molti luoghi comuni sulla gravidanza. Claudia. Certo, infatti ci speravo in questa possibilità. Dai, allora. Da parte mia, io ho iniziato comunque a fare attività sportiva dopo l'infortunio e da poco tempo. Volevo sapere se è vero effettivamente che posso comunque cimentarmi in attività non troppo impegnative. Tranne il dottor Semprini ha detto no al paracadutismo e alla pesca all'immersione con le bombole. Per il resto può fare tutto. Mangia di tutto, Claudia? Sì, assolutamente. Dottor Semprini, ad una mamma che, come molte ci stanno scrivendo, stanno vivendo i primi mesi di gravidanza, libertà, vivetela bene, ma se lei dovesse proprio dare dei consigli più mirati sullo stile di vita, su... Allora, riprendo solo un aspetto, sull'alimentazione. La donna può mangiare di tutto, ma deve sapere se ha anticorpi o no per la toxoplasmosi. Perché sennò in questo caso deve fare attenzione, la carne deve essere cotta o congelata prima, le verdure devono essere lavate bene, la frutta, e deve, se fa del giardinaggio o altro, usare dei guanti e poi lavarsi bene le mani, perché queste oocisti del toxoplasma possono ricircolare nel tessuto a lungo. E rispetto all'attività fisica, una cosa, io ho delle pazienti che abbandonano il motorino o evitano le strade col pavé a Milano, ecco, o lasciano la bicicletta, timorose che gli effetti meccanici di questi scottimenti possano disturbare la gravidanza. È quasi impossibile disturbare una gravidanza da un punto di vista meccanico, ci vuole un trauma violentissimo. Quindi l'incoraggiamento è proprio a viverla non con serenità, ma continuare la propria vita, inserire la gravidanza come era un tempo nella vita di una persona. Attività sessuale. L'attività sessuale è stata così, ovviamente... rispondiamo. Sono più gli ascoltatori che mi chiedono di farle questa domanda che le ascoltatrici, ma, dottor Semprini... Allora, la vita sessuale è un elemento molto personale. Io incoraggio le coppie a mantenere una loro vita sessuale, secondo quello, e anche a rispondere a quello che cambia nella gravidanza. Ad esempio, un aspetto molto rilevante è che in una coppia, fino all'arrivo del primo bambino o bambina, l'uomo è al centro di tutte le attenzioni della moglie. Questa attenzione scomparirà, perché poi il bambino domina l'intera scena familiare. Il mantenimento di una vita sessuale riduce il rischio che la donna poi venga cristallizzata in un'immagine solo materna, perdendo anche il suo ruolo di fascino, di desiderio, di piacere sessuale, che deve essere mantenuto. È una tutela per la donna, è una tutela per il nuovo papà. Ma biologicamente su questo argomento, a una mamma in attesa viene più voglia di fare sesso o no? Allora, alcune donne trovano il momento della gravidanza un momento particolarmente attrattivo da un punto di vista della loro vita sessuale. Altre donne no. Per avere un rapporto sessuale ci vogliono due persone. E quindi abbiamo bisogno di vedere come questa particolare predisposizione viene raccolta dal partner. Federica da Roma mi segnalano che ha la risposta per alla nostra domanda, al parto il peso, quanto se pesano più i maschi o le femmine. Federica? Sì, buongiorno. I maschi pesano di più in media, insomma. Perché? Perché penso che mangino di più, che sia il testosterone comunque che influisca come tutto il resto, non lo so. Comunque, poi il professore sono i maschi ed è la verità. Sì, bravissima, sì. È la risposta giusta. Sì, infatti mia figlia però è come vede... 3 kg e mio figlio di 3,750 kg. Vede, i maschi pesano di più. Allora lei giocava in casa. Allora io vi devo salutare e ringraziare il dottor Semprini. Voi che avete partecipato, Alessandro Pellizzari, ricordo il titolo della nuova gravidanza, avere un figlio oggi, della Mondadori, e Carmelo Lauricella, bye bye. Radio 24, la passione si sente.